Alberto Rasia. Ancora una volta buonasera, bentornati amici dei motori, questo è lo spazio dedicato ad auto e moto da parte di Radio 24, lo sapete da quel 12 maggio 2001 in compagnia degli amici di Quattro Ruote e tutte le riviste e gli esperti ad essa collegati. È una puntata particolare questa, mi auguro interessante per i temi, ma è anche un'attesa per la settimana prossima. Noi siamo in fermento ovviamente, voi direte perché cosa? Per il Motor Show, ormai l'unica vera manifestazione automobilistica italiana. È diventata sempre di più negli anni, soprattutto nelle ultime due stagioni, un motivo di vanto perché molte case automobilistiche decidono di portare al Motor Show le loro anteprime, cosiddette europee o addirittura mondiali. Vuol dire che è la prima volta che svelano non solo al pubblico ma anche a noi giornalisti del settore i nuovi modelli. Questo detta l'importanza della manifestazione. Il 3 e il 4 sono giornate dedicate alla stampa, dal 5 dicembre per circa una decina di giorni, poi saremo più puntuali. Vorrei darvi anche gli orari e i costi dei biglietti la settimana prossima, sarà aperta al pubblico. Durerà 10 giorni fino al weekend successivo, ci saremo anche noi il 3 e 4 e questo farà sì che l'intera prossima puntata sarà interamente dedicata al Motor Show di quest'anno 2008. Detto questo, buonasera a Marco Perucca da Quattro Ruote. Ciao Marco. Buonasera Roberto e buonasera a tutti i radioascoltatori. Con Marco andremo a fare una prova molto particolare, la prova di due auto, una Fiat Punto e una Mercedes B, chiamiamole un po' particolari per ora. Dopo di lui Stefano Ravaioli, direttore del SITEB, che è un'associazione della filiera degli asfaltatori, coloro che producono e stendono l'asfalto sulle nostre strade, ci darà notizie mica tanto confortanti sulla produzione di asfalto italiano quest'anno, che è purtroppo in calo, e chiuderemo invece con il mercato del noleggio. Emilio De Leidi, sempre da Quattro Ruote, invece ci darà buone notizie, il noleggio è un po' in controtendenza e sta andando abbastanza bene. Dunque Marco Perucca, dicevo Fiat Punto, il 1004, Mercedes B170, però due auto diciamo equipaggiate con un sistema diverso. Parliamo di GPL intanto, a te la scelta di quale delle due descrive per prima. Sì, più che l'auto, quello che ci interessa in questo caso è l'impianto, cioè su queste auto abbiamo provato degli impianti a GPL che utilizzano però l'iniezione liquida del gas, perché normalmente negli impianti quelli più comuni e più diffusi il gas viene stivato nel serbatoio in forma liquida, infatti il GPL è gas di petrolio liquefatto, no? E poi viene riportato alla forma gassosa prima che raggiunga il motore e quindi iniettato nei cilindri in forma gassosa. Questi impianti invece utilizzano il GPL ancora in forma liquida, cioè il GPL viene utilizzato esattamente come la benzina, viene stivato nel serbatoio in forma liquida, lì c'è una pompa che non c'è negli impianti normali che spinge il GPL liquido fino al motore e quindi viene iniettato in forma liquida. Beh, ecco, questa è una differenza fondamentale in realtà, intanto perché fino ad oggi si è fatto in un modo, oggi si provano soluzioni diverse. C'è un motivo ovviamente per cui si provano soluzioni tecnologiche diverse, Marco. Si parla di maggiore efficienza piuttosto che minori consumi. Qual è il motivo preciso di questa sperimentazione? Sì, ovviamente il motivo è quello di trovare una migliore efficienza, di far bruciare il GPL nel miglior modo possibile e questo con l'iniezione liquida è possibile. I vantaggi dell'iniezione liquida sono essenzialmente tre. Diciamo il dosaggio, dato che si deve dosare un liquido e non un gas, è molto più preciso, esattamente come avviene per la benzina. Anzi, l'impianto utilizza degli iniettori appositi che sono molto simili a quelli della benzina, però utilizza la stessa elettronica dell'impianto a benzina, quindi un dosaggio molto più preciso del GPL. In più, visto che il GPL viene iniettato in forma liquida e non gassosa, non sottrae spazio all'aria aspirata. E terzo vantaggio, visto che poi comunque il GPL passa da liquido a gassoso praticamente all'ingresso della camera di combustione, c'è un passaggio di stato che raffredda la miscela di circa 50 gradi e questo ovviamente va a vantaggio anch'esso del rendimento del motore. Del motore. Si parlava come prestazioni di un aumento fino al 90-95% del GPL, chiamiamolo tradizionale, a questo punto rispetto all'uguale identico motore benzina. In questo caso ci sono percentuali o ancora presto? No, noi abbiamo fatto delle prove con entrambe le vetture e le prestazioni GPL sono risultate uguali o addirittura leggermente superiori a quelle benzina. Si tratta di decimi, per carità, però visto che normalmente col gas si perde qualcosa, in questo caso invece le macchine vanno esattamente uguali a benzina e GPL, anzi se c'è una piccola differenza è a vantaggio del gas. Questo proprio diciamo a conferma di come venga ben utilizzato il GPL in forma liquida. Decisamente. Senti, allargando al GPL, visto che sono tempi in cui la benzina è scesa finalmente, ma non certo come il greggio del petrolio, piace sempre comunque molto, ti sei accorto anche tu di cosa è successo sul mercato, pensiamo a Chevrolet per dirne una, nel momento in cui una casa ha tirato fuori un modello con impianto GPL ha fatto sfracelli di vendita. Quanto costa invece più o meno, fammi una media per lo meno, aggiungere, equipaggiare la propria auto già esistente con un impianto GPL esterno? Sì, allora il prezzo degli impianti GPL varia a seconda dei modelli, comunque diciamo lo possiamo stimare tra i 1.800 e i 2.000 euro e direi che anche questi impianti a iniezione liquida, cioè hanno anch'essi prezzi, sono allineati diciamo a quelli agli impianti gasosi, quindi bisogna mettere in conto tra i 1.800 e i 2.000 euro. Poi ci sono ovviamente gli incentivi statali che dipendono ovviamente dal momento, se ci sono fondi, se non ci sono e via così. E ricordiamo comunque che col GPL aumenta il consumo, cioè il consumo anche in questo caso con iniezione liquida aumenta di circa il 30%, che è però diciamo in linea con la differenza di contenuto energetico tra i due carburanti. Poi ovviamente il GPL costa molto meno della benzina, infatti, e il risparmio è comunque assicurato. Ecco perché i punti e i conti vanno fatti molto attentamente, quindi è vero che costa la metà, si consuma però circa il 20-30% in più, questo vuol dire dover immettere nel nostro serbatoio a parità di chilometri molto più GPL, è comunque conveniente parecchio e poi inquina anche meno, non dimentichiamolo, si può circolare anche durante i blocchi del traffico. Bene, grazie a Marco Perucca e buona serata. Bene, buona serata a tutti. Quattro ruote e dintorni. Tempi duri per le vendite, lo sappiamo, il mercato delle auto nuove, tempi duri per il mercato delle auto usate. Ormai, insomma, questi dati con il meno davanti a due cifre percentuali ci escono un po' dalle orecchie, purtroppo. Però ci sono anche le notizie positive. Una di queste proviene dal mercato dell'autonoleggio, sia a breve termine, che è un mercato che si rivolge a coloro che vanno in una località per uno, due, tre, quattro giorni o qualche settimana, e l'altro è del medio-lungo, soprattutto termine, per cui vuol dire 12, 24, 36 mesi e oltre. La NIASA, l'associazione di riferimento, ha diffuso i dati che sono abbastanza positivi. Ne parliamo insieme ad Emilio De Leidi, giornalista, esperto di auto che sentiamo spesso. Caro Emilio, buonasera. Buonasera, buonasera a te Roberto, hai ragione, c'è un dato decisamente in controtendenza. Almeno nei primi 9 mesi del 2008 il mercato dell'auto aziendale è andato bene, ha fatto segnare un più 4,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, mentre nella stessa fascia temporale il mercato dell'auto in generale ha segnato un arretramento superiore all'11,5%. Pensate che molto probabilmente a fine anno oltre il 30-31% delle auto vendute in Italia sarà immatricolato a persone giuridiche, cioè a società o liberi professionisti, eccetera, quindi non a privati. Questo vuol dire che un'auto su tre quasi viene utilizzata per scopi prevalentemente aziendali. È chiaro che il rallentamento generale dell'economia che stiamo vivendo in quest'ultima parte dell'anno avrà sicuramente dei riflessi anche da questo punto di vista, perché le aziende avranno meno bisogno di fare chilometri, di fare business e di utilizzare le auto. Però l'anno si chiude bene, parlavi di noleggio a lungo termine, con un più 6% in termini di flotta e un più 7% in termini di fatturato, e il noleggio breve va ancora meglio perché fa un fatturato da contratti di più 8%, un più 4% il numero di noleggi. Non ecco, funziona qua invece più il leasing, che ha segnato, sta segnando un meno 10% nel 2008. Meno 10, lo sapevamo. Del resto me ne sono occupato anche personalmente sul Sole 24 Ore di qualche tempo fa. Chi lo volesse può scrivermi su 4ruote@radio24.it, gli spedirò l'articolo. C'è un discorso abbastanza complicato sulla fiscalità del settore autonoleggio da fare, sicuramente si è già fatto molto, soprattutto negli ultimi 2 anni dopo una direttiva europea che era abbastanza restrittiva, e oggi sicuramente la situazione fiscale è migliore. Non siamo però, questo va detto, all'altezza di paesi come Olanda, Inghilterra e altri, dove sicuramente la deduzione dei costi, la detrazione dell'IVA raggiungono quasi il 100%. Questo potrebbe però suggerire un aumento ancora di buone notizie dal settore dell'autonoleggio. Collegato a questo discorso, Emilio, mi piaceva però citare i nostri ascoltatori che aspettano questo sistema ormai da tempo, anche se in realtà esiste già, queste due paroline magiche: scatola nera. Perché ne parliamo? Ma ne parliamo perché ormai da 6 anni, con 4 volte di dicembre, regaliamo un allegato di un centinaio di pagine dedicato proprio al tema delle auto aziendali e delle flotte. Il tema, così, la cover story di ogni anno cambia, e quest'anno è dedicata, oltre naturalmente all'ambiente, alle nostre iniziative per la riduzione della CO2, al tema delle scatole nere, ecco. Cioè di come ti controllo il dipendente senza però violare la privacy, perché sappiamo che questi sistemi possono avere delle implicazioni giuridiche molto importanti. E quindi abbiamo affrontato l'argomento interpellando anche il garante della privacy, e immagino a questo punto siate molto curiosi di sapere come è stata sviluppata la faccenda. Decisamente, anzi ne approfitto per ripetere la mail del nostro programma. La domanda che possiamo girare anche agli ascoltatori è questa, e poi la settimana prossima vi darò qualche risultato, qualche risposta. Nel caso foste collaboratori interni, esterni ad un'azienda, dipendenti a maggior ragione o quadri, siete d'accordo che l'azienda, come ha detto Emilio, vi spia attraverso una scatola nera? Non è bello il termine spiare, diciamo controllo di quelle che sono le prestazioni automobilistiche. Lo si fa per dei motivi positivi, qualcheduno ha avanzato dei dubbi. 4ruote@radio24.it. Chiudiamo con la risposta del garante, Emilio. Naturalmente dipende molto dal tipo di sistema di controllo. Ci sono quelle cosiddette chiavette che rilevano solo i parametri di funzionamento del veicolo, quindi consumi, chilometri percorsi eccetera, e hanno meno implicazioni. Se invece c'è una geolocalizzazione satellitare, cioè si sa esattamente dove è il dipendente, beh, allora qui ci sono tutta una serie di adempimenti previsti anche dall'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori. Il consenso dei sindacati è necessaria una notifica al garante per la privacy, ed è molto importante che il veicolo debba essere munito di una informativa, cioè di un'etichetta, di un adesivo, come succede per le telecamere messe nei luoghi pubblici, per esempio, che informa, che avvisi il conducente della presenza di questo dispositivo. Molto bene, grazie davvero per tutte queste notizie interessanti, Emilio Delaidi di 4ruote. A presto e buona serata, Emilio. Un saluto a voi e a tutti gli ascoltatori. Allora, grazie a Emilio Delaidi di 4ruote. Adesso parliamo, lo avevo annunciato a inizio trasmissione, di un argomento nuovo per noi, nel senso che in tanti anni, colpevolmente lo dico, non ne abbiamo mai parlato. In realtà se ne sente parlare troppo poco. Il nostro asfalto, così importante per la sicurezza. Esiste il SITEB, che è una sorta di associazione di tutta la filiera di coloro che producono e stendono l'asfalto sulle nostre strade. Si è radunata a Padova in un salone di cui parleremo più tardi. Vi presento il direttore Stefano Ravaioli. Buonasera direttore. Buonasera a lei e a tutti i suoi ascoltatori. Prima della notizia giornalisticamente rilevante, le chiedo di descrivere 5 tipi di asfalti. Asfalto drenante. Sì, l'asfalto drenante forse è effettivamente quello più conosciuto, quello che io chiamo il più amato dagli italiani, ovviamente dagli italiani utenti della strada. Sì. Sono coloro che viaggiano, lo conoscono molto bene, perché è quel tipo di asfalto che si lascia attraversare dall'acqua quando piove. Ce ne accorgiamo immediatamente quando sotto l'acqua dobbiamo superare un camion. Ce ne accorgiamo perché noi normalmente abbiamo davanti a noi uno sbarramento d'acqua che ci impedisce la vista e non ci rende tranquilli nel controllo. Sì. In più, un sacco di volte ci accorgiamo che la ruota fa aquaplaning, mentre l'asfalto drenante evita tutto questo. È bucato, è forato, l'acqua la attraversa e attraversa poi uno strato impermeabile posto sottostante che la drena lateralmente. È la più grande invenzione degli ultimi 20 anni. Beh, questo la dice lunga sull'utilizzo di questo asfalto, che dovrebbe anzi essere diffuso, ma di questo parliamo fra poco. 2. Asfalto fonoassorbente, direttore. Bene, questa qui è quasi una derivazione dell'asfalto drenante. Ci si è accorti che la tecnologia del drenante può diventare anche fonoassorbente, in quanto i vuoti e le cavità che si vengono a formare in fase di produzione del manufatto drenante può catturare le onde sonore e le frequenze del rumore da traffico. Quello che noi sentiamo quando viaggiamo su un asfalto drenante è una sorta di rumore sordo. In realtà sono state tagliate tutte le altre frequenze, quindi noi sentiamo al nostro orecchio quasi la metà della pressione sonora, si sente molto di più verso l'esterno che non all'interno dell'abitacolo. Tuttavia nei centri abitati questo tipo di conglomerato, fatto salvo il problema poi dei sottoservizi, tutto quello che c'è sotto la strada, crea dei forti vantaggi in termini proprio ambientali. Terzo, asfalto, l'asfalto antighiaccio, così importante su strade di montagna, direttore? Sì, l'asfalto antighiaccio è una grossa novità. E il problema del ghiaccio è un problema colossale. Introducendo un sale all'interno del conglomerato, nell'impasto bituminoso, si abbatte il punto di congelamento, portandolo da 0 gradi a meno 15, e abbiamo quindi più tempo per evitare i crostoni di ghiaccio. Asfalto mangia smog e mangia polvere. Beh, questa è la nuova frontiera, il cosiddetto fotocatalitico. Il problema delle polveri sottili e il problema dello smog possono essere risolti anche da questi tipi di conglomerato che contengono del diossido di titanio che si combina poi con gli inquinanti dell'aria e crea, diciamo così, un rifiuto inerte, un calcare, un sale. L'aria rimane pulita. Chiudiamo con le strade realizzate con la gomma riciclata. Cosa si intende per gomma riciclata? Il problema dello smaltimento dei pneumatici è un problema colossale. Noi abbiamo visto che triturando il pneumatico e mettendolo nel conglomerato bituminoso si crea quello che nella Formula 1 è la gomosità della pista, ovvero migliora l'aderenza e di conseguenza favorisce la sicurezza stradale. Molto bene, è stata chiusa oggi una manifestazione importante del vostro settore a Padova, l'unico salone europeo proprio interamente dedicato ai temi del settore. Allora, la notizia fondamentalmente è una: si è prodotto meno asfalto quest'anno, anche l'anno scorso era successo questo. Le chiedo quanto asfalto viene prodotto in Italia e come mai c'è una diminuzione e cosa comporterà questo, direttore? Sì, purtroppo la realtà è quella che lei ha appena citato. Noi siamo scesi da quella che era la produzione soglia di riferimento per la sicurezza, che è 40 milioni, ormai da 2 anni siamo scesi a 35 e quest'anno chiuderemo a 32, ma le previsioni del 2009 sono anche peggio. E questo cosa comporta? Comporta ovviamente che c'è il rischio che la manutenzione delle nostre strade sia insufficiente, largamente insufficiente, per gli operatori, anzi gli utenti della strada. Che cosa si può fare a questo punto? La ripresa economica, come sempre, è parte delle infrastrutture, per cui io voglio essere fiducioso. Sono il veicolo di traino dell'economia del paese, di conseguenza, a mio avviso, l'economia del paese per riprendere dovrà ripartire proprio dalle nuove infrastrutture. Ho fiducia che nel futuro ci sia una ripresa. Bene, grazie davvero al direttore del SITEB, Stefano Ravaioli. A presto, direttore, buon lavoro. Buon lavoro a voi e io spero di vedere ancora tanta gente sulle nostre strade, come sempre, con un clima di fiducia e di rispetto per il futuro e per gli altri. Speriamo, ma credo sia inevitabile. Grazie davvero, con la sua voce termina la nostra trasmissione, torna puntuale sabato prossimo ore 21:05. www.radio24.it è la nostra consueta mail, 4ruote@radio24.it. Da Giorgio Mattei in regia, Roberto Rasi al microfono, davvero una buona guida.